Dodicesima unità. La casa. Dialogo. Finalmente ho trovato casa. Sai che presto avrò un appartamentino tutto mio? Che fortuna! Come sei riuscita a trovarlo? Una collega d'ufficio ha lasciato l'appartamento perché l'hanno trasferita. Quanto è grande? Sono circa 60 metri quadrati. E c'è pure un balconcino. Ottimo! E a che piano è? Al secondo. E c'è anche l'ascensore. Com'è diviso? Dunque, a destra dell'ingresso c'è una cameretta, in fondo un bagnetto e a sinistra una camera più grandina, quasi il doppio dell'altra. Dimentichi la cucina. Beh, più che una cucina è un cucinotto. Sta tutto in 3 metri quadrati. Un angolo cottura? Sì, è diviso dal soggiorno soltanto da un bancone. Comodissimo, ma l'appartamento è ammobiliato? Sì, è completo di tutto. E quando ci andrai ad abitare? Fra un mesetto. Beata te. Posso chiederti quanto paghi d'affitto? 800.000 lire al mese. Che ne dici? È troppo? Beh, non è poi tanto poco. Sai se anche Giulio ha trovato casa? No, non ne so niente. Non lo vedo da una decina di giorni. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Sai che presto avrò un appartamentino tutto mio? Che fortuna! Come sei riuscita a trovarlo? Una collega d'ufficio ha lasciato l'appartamento perché l'hanno trasferita. Quanto è grande? Sono circa 60 metri quadrati e c'è pure un balconcino. Ottimo! E a che piano è? Al secondo e c'è anche l'ascensore. Com'è diviso? Dunque, a destra dell'ingresso c'è una cameretta, in fondo un bagnetto e a sinistra una camera più grandina, quasi il doppio dell'altra. Dimentichi la cucina? Beh, più che una cucina è un cucinotto. Sta tutto in 3 metri quadrati. Un angolo cottura? Sì, è diviso dal soggiorno soltanto da un bancone. Comodissimo, ma l'appartamento è ammobiliato? Sì, è completo di tutto. E quando ci andrai ad abitare? Fra un mesetto. Beata te. Posso chiederti quanto paghi d'affitto? 800.000 lire al mese. Che ne dici? È troppo? Beh, non è poi tanto poco. Sai se anche Giulio ha trovato casa? No, non ne so niente. Non lo vedo da una decina di giorni. Vocaboli, pagina 303. Casa di campagna. Villa. Appartamento. Monolocale. Vocaboli, pagina 304. Terrazza. Balcone. Sala. Bagno. Salotto. Camera da letto. Cucina. Ingresso. Vocaboli. Dall'antiquario. Attaccapanni. Libreria. Scrivania. Mobile. Divano. Poltrona. Frigorifero. Scaffali. Dodicesima unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 18. A un'agenzia immobiliare. Senta, sto cercando un appartamento in affitto sui 120 metri quadrati. Ne abbiamo uno di circa 110 metri. Può andar bene? Forse sì. Com'è composto? 2 camere da letto, salone, cucina abitabile, doppi servizi e 2 balconi. Non c'è né garage né box? No, però nelle vicinanze c'è un parcheggio grandissimo. Scusi, quant'è l'affitto? 800.000 lire al mese. Accidenti. È il doppio di quanto vorrei pagare. Guardi, con 400.000 lire ormai non si prende neppure un mini appartamento. Avete qualcosa di più economico? Magari in una zona più lontana? Sì, ma sono tutti più piccoli. Quanto più piccoli? Sui 90 metri quadrati. In questo caso l'affitto va dalle 600 alle 700.000 lire, secondo la zona. 90 metri quadrati sono troppo pochi per 4 persone. Per il momento non abbiamo niente di meglio. Provi fra una quindicina di giorni. Sì, certo. È la cosa migliore. Vi passerò. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 315. Che ne dici? Questo quadretto lo mettiamo nell'ingresso? No, non mi pare il posto giusto. C'è poca luce. Lo mettiamo in salotto, vicino al caminetto. Ma forse ci sta meglio un quadro più grande. Per ora facciamo così. Quando avremo un quadro più grande, toglieremo questo. D'accordo. Ma prima di tutto vediamo come possiamo sistemare il divano e le poltrone. Certo che lo spazio è pochino. Se mettiamo il divano vicino al finestrone, sarà un problema trovare posto per le poltrone. Allora proviamo a metterlo di fronte al caminetto. E la TV dove la mettiamo? Sopra il mobile bar. Oppure sul tavolinetto. No, aspetta, neppure questa soluzione va bene. Guarda, cominciamo da capo. Allora, il divano va sulla parete più lunga. Ai lati vanno le due poltrone. A destra del divano c'è ancora posto per il tavolinetto rotondo. A sinistra, invece, resta lo spazio per il mobiletto della TV. Sì, penso proprio che ci siamo. Così come dici tu, quando siamo seduti sul divano, possiamo vedere sia la TV che il caminetto. Bene, se sei d'accordo, cominciamo subito a sistemare.